Europa 24. La Commissione europea ha approvato le linee guida pubblicate ad aprile 2013 per l'etichettatura delle merci prodotte nei territori occupati da Israele. In sostanza, i prodotti avranno un'etichettatura che consentirà di capire se provengano dagli insediamenti ebraici nei territori occupati. Israele condanna la decisione dell'Unione europea. A sollecitare il chiarimento sulla normativa erano stati in aprile 16 governi europei, Italia compresa. In nome dell'informazione e della massima trasparenza per i consumatori, cosa deve essere scritto alla voce origine sui prodotti alimentari provenienti dai territori occupati? La risposta della Commissione è appena arrivata con la nota interpretativa alle linee guida per l'etichettatura dei prodotti. Bisognerà che ci sia scritto che arrivano da insediamenti israeliani e non semplicemente da Israele, perché l'Europa riconosce i confini di Israele al 1967. Del resto, si osserva a Bruxelles, in base all'accordo di associazione tra Israele e Unione Europea, i prodotti dei territori occupati in Cisgiordania e nel Golan sono esclusi dai benefici doganali. Ma Israele insorge. Nessuna etichettatura farà avanzare il processo di pace, dice il Ministero degli Esteri. Questa scelta potrebbe rafforzare il rifiuto dei palestinesi a tenere negoziati diretti e incoraggiare gli elementi radicali che sostengono il boicottaggio contro Israele e negano il suo diritto ad esistere. Secondo la Commissione, i prodotti interessati al provvedimento sono meno dell'1% del totale degli scambi tra Unione Europea e Israele, ovvero 154 milioni di euro nel 2014. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prenderà il via nel pomeriggio a Malta il vertice sull'immigrazione. Stamattina telefonata fra il premier Matteo Renzi e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Nelle stesse ore in cui l'esercito sloveno comincia a srotolare il filo spinato al confine con la Croazia per controllare l'afflusso dei migranti, a Malta inizia l'atteso summit sulle migrazioni. Partecipano più di 90 delegazioni, fra cui l'Unione Africana e l'Unione Europea, che sul tema hanno le e obiettivi molto diversi se non divergenti. Al centro degli sforzi dell'Unione Europea i rimpatri. Fino ad oggi sono stati concordati da ogni singolo Stato europeo con i singoli Stati africani, ma l'Unione vuole avere un peso specifico diverso nella negoziazione. Per questo darà il via libera a un fondo fiduciario europeo d'emergenza per l'Africa con un budget di 1,8 miliardi di euro, una parte provenienti dal bilancio dell'Unione e una parte dagli Stati. E qui si arriva al primo problema. Questi ultimi hanno messo a disposizione finora appena 32 milioni, di cui 10 arrivano proprio da Roma. L'altro pilastro della discussione a Malta sarà quello dei ricollocamenti. Per ora, su 160.000 persone che dovevano partire da Grecia e Italia, ne sono partite meno di 200. E Roma continua a insistere che finché non si faranno passi avanti su questo, non andrà avanti neppure il progetto Hotspot, per ora fermo a un centro funzionante. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Chiudere un contratto di lavoro perché un dipendente abbia rifiutato una riduzione salariale o un'altra modifica sostanziale e unilaterale del contratto equivale ad un licenziamento. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, che si è pronunciata su un caso spagnolo nel quale un dipendente di un'azienda che aveva chiuso numerosi contratti di lavoro voleva vedere applicata la legge sui licenziamenti collettivi che l'azienda invece negava. Ed è tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.